All time rock and roll. E bentornati a tutti. Ciao. Piccoli problemi tecnici in apertura quest'oggi. No, nessun problema. L'unico problema tecnico è che manca il tecnico. Oh. Manca il tecnico, manca. Ricordiamo il Bindi è al suo primo saggio di danza. era il saggio di danza, sì. Sì. Non era al lavoro? No, siamo sicuri. No, a Siena per un... cos'era? Un saggio di danza. Un saggio di danza. No, judo. Judo. Un saggio di danza ispirato al judo. Esattamente. Dunque, in bocca al lupo, quindi torna vincitore, mi raccomando, stai ogni attento. Tanto se te va viene anche in radio. Con la tutina. Tuta. Tu. Tuta. Tuntien. Oh, ora sento. Ora senti? Sì. Problema tecnico risolto. La formazione siamo... quindi sempre di oggi, il patro accanto a me, Luke. Ragazzi, siamo in diretta, il problema è che i nostri cervelli sono in differita, ecco. Non vi preoccupate, è tutto a posto. Alla tua destra io, il nanno. Yep. E alla mia destra ancora c'è... Mertens. Ok, chi è? Fa l'ala esterno destro del Napoli. Oh, c'è sa l'ala destra, capito? Ballare Napoli. Iniziamo questa puntata di oggi con i compleanni. Sì, sono i 7-6. Grazie. Il primo compleanno è Michael Andrew Duff McKeegan. Un altro nome? No. Basta. Seattle, nato il 5 febbraio del 60. Super Bowl. Seattle ha vinto il Super Bowl. Ma tra altre cose, tipo 48 a 2. Sì, sì. Stracciati. Sì, era venduta come la miglior difesa contro il miglior attacco. Sì, una cosa del genere. È paragonabile a un 4-0 calcistico, penso. Esatto. Una cosa del genere. Una Waterloo del football, diciamo. Sì, è stata, per gli sconfitti. Benissimo. Grande spettacolo a metà gara, l'hai visto? No. Red Hot, Bruno Mars. Ah, belle. Molto bello, molto bello. A me personalmente il football non piace, però, però lo spettacolo in intermezzo è molto bello. Ma non l'ho visto. Rimane pur sempre uno dei il Super Bowl. Lo sport più seguito in America. No, il, l'episodio del Super Bowl è lo spettacolo più visto al mondo, credo. Sì, sì, ma ha fatto 150 milioni di spettatori, sono, in affari del genere. Sono anche Mondovisione. Sì. Sono anche famosissimi i costi delle pubblicità durante l'intervallo fra il primo e il secondo tempo. Cioè, sono allucinati. Il prossimo anno penso che pubblicizzerò il mio locale. Certo. La Zinfarosa al Super Bowl. Al Super Bowl. Finirà di pagarlo tuo nipote, probabilmente. Se va bene. Se va bene. Insomma, questo compleanno oggi non lo vogliamo dire. Allora, mi avete interrotto, adesso sarò costretto a ripetermi. Michael Andrew Duff McKeegan, nato a Seattle, non interrompetemi ancora sul Super Bowl. No. Il 5 febbraio del 64. È un bassista e cantante statunitense famoso per aver suonato nei Guns N' Roses dal 1985 al 1997. Ha inoltre fatto parte di molte altre band come Silly Killers, The Minutes Warning, The Fastbacks, Hobo Slank, Road Crew, Duff, Wayne Newton, Neurotic, Outsider, Loaded, Velvet Revolver e Jane's Addiction. Beh. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. We'll be right back. i Guns N' Roses con Sweet Child of Mine. E continuiamo con i compleanni per oggi e facciamo i nostri migliori auguri a Cliff Martinez, nato a New York il 5 febbraio del 1954. È un compositore e batterista, per l'appunto, statunitense. È autore di numerose colonne sonore, ha lavorato anche come batterista per i Captain Beefheart, The Dickers, The Weirdos e Lydia Lunch, ma soprattutto è ricordato per essere stato nei Red Hot Chili Peppers dall'84 all'85. Red Hot Chili Peppers, Give It Away. Ed erano i Red Hot con Give It Away. E adesso, ragazzi, scusate, vi devo dare un'ansia. È arrivata un'ansia, ora. Un'ansia. Io ho un'ansia già che non. È ufficiale, il Bindi è al saggio. Non mi risponde al telefono. Ai suoi primi 10 minuti del ballo del cigno. Dunque, no, la morte del cigno. Sicuramente in questo momento è sul palco. Sì. E noi con di lui. Rosa, vestito di rosa. Un sottofondo di piano, delle luci soffuse. Sì, ed infamate. E di pomodori lattughi che volano verso di lui. Cassette d'aranci, ma le cassette. Sì, ma proprio le cassette intere. E la felicità dei frutti vendoli di dov'è? A Siena. Senesi. Continuiamo. E andiamo avanti con il terzo compleanno. Ed ultimo, bravo. Lui è Alan Cooper, nato con il nome di Alan Peter Kupeschmidt. Nato a New York il 5 febbraio del 1944, è un musicista statunitense, tastierista, compositore, arrangiatore, produttore ed è una figura centrale in tutta la musica del rock dagli anni 60 ad oggi. Pur avendo radici nel rock and roll e nel blues, è stato sempre aperto a nuove sperimentazioni. Quindi, carissimo Al, tanti auguri e questa è la sua I Love You More Than You Ever Know. If I ever leave you, you can say I told you so. And if I ever hurt you, baby, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You're thinking once his little loved one gone. I love you, baby, more than you'll ever know, more than you'll ever know. When I wasn't making too much money, you know where my paycheck went. You know I brought it home to baby, and I never spent one red cent. Is that in a way for a man to carry on? You think it won't, his little loved one gone. I love you, baby, more than you'll ever know, more than you'll ever know. Everything that you demand, I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Is that in a way for a man to carry on? You think it won't, his little loved one gone. I love you, baby, I love you, baby. I love you more than you'll ever know. Yeah. una delle più belle canzoni che abbia mai ascoltato. Piano, no, Luke? Quale, in quale epoca? Di quale mondo? No, racconta tu, dai. Cioè, siamo no, all allora, time rock and roll, non blues e jazz. Senza nulla togliere al pezzo che è bellissimo, bellissimo, la parte scherzi. Che ricordiamo è I Love You More Than You Never Know. E comunque rifacciamo gli auguri ad Al Cooper. Ma il patro ha leggermente frainteso il nome. Lui pensava che fosse Alice Cooper. Grazie. Invece questo è proprio Al Cooper. Uguale. Sono due persone differenti e lo si è scoperto solo ora. Diciamo che c'è stato questo piccolo... Io ho letto durante la mia ricerca, è una delle figure più centrali, più importanti della storia del rock, no? Quindi lo abbiamo detto anche in diretta. È stato bello. Ma quattro, ma l'hai ascoltato? L'hai ascoltata la canzone? Sì. Rock. Gli si è strozzato un gola. Va bene, abbiamo finito per oggi con i compleanni. Ah, pensavo con la puntata. No, con i compleanni. E quindi iniziamo la terza parte della storia del rock del 1968. Iniziamo da Hey Jude. Abbiamo Hey Jude, ma io non ce l'ho. Ma che scaletta c'hai? Io ho la scaletta giusta, ragazzi. Sì, ma sei passato alla pagina 2, siamo alla 1 ancora. Perché toccava a lui, no? Ops. Lui è geloso, voleva, capito? Perché questa è la sua colpa mia. Tocca e Jude. Ma dove? Ma dopo. Ha detto che è colpa sua. Incredibile. Colpa mia. Incredibile. E allora chi sta, scusa? A Luke. Ah, a Luke. Ok. Vai, Luke. Che c'è? Al Bindi. Al Bindi, che adesso sta eseguendo la nona sinfonia di Beethoven. In tuta nera. Tuta. Allora, calma e sangue freddo. Questo che andremo a spiegarvi è un brano che è passato alla storia per vari motivi. Hey Jude. No. Uno, perché è considerato il primo brano heavy metal della storia, visto che un verso dice testualmente: I like smoke and lighting, heavy metal thunder. Mi piacciono il fumo, il lampo, il tuono ed il metallo pesante. Con riferimento al rombo sferragliante delle motociclette bicilindriche usate dai riders. Sottolineo bicilindriche. Bicilindriche. 2. Perché il Nannotti e il Mazzeo sono due deficienti. Eccoci. Perché mi interrompono continuamente. 2/A. Perché è indissolubilmente associata all'immagine dei bikers. Ma avendo spezzato la lancia, ha marcato il cavaliere del porta del foro, segna punti. Due cilindrici. Bicilindrici. Scherziamo ovviamente. 3. Si è quasi finito, ragazzi, non vi preoccupate. Poi si manda la canzone. Perché è uno dei brani di punta di Easy Rider, dove la canzone degli Steppenwolf presenta, a differenza della versione originale, un rombo di motociclette. Niente, oggi non ce la facciamo mai. La motocicletta è bellissima. Si sa che mentre uno pulisce casa dando lo straccio, fa un sgrassate che fai, le dai, cioè. Uno passa il mocio sul bicilindrico in casa. Sei un lampo, un bam. Allora, che caldo che fa. È iniziata la base. Sono 5 minuti di base, è iniziata. Sì, grazie, dai. Allora, dai, Masa. Dai, vai. Un rombo di motocicletta in apertura, quasi a stringere ancora di più il legame con i bikers. Il collegamento suono-immagine era così perfetto da vincere anche la resistente di Peter Fonda, che fin dall'inizio era più propenso a utilizzare per la colonna sonora Crosby, Stills e Nash. Una curiosità: gli Steppenwolf presero il nome da un romanzo di Hermann, Il lupo della steppa, Der Steppenwolf in lingua madre tedesca. Il fondatore della band, John Kay, è infatti di origini tedesche. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and

è stato il più lungo singolo dei Beatles, dura infatti 7 minuti. È anche il più lungo singolo in assoluto ad arrivare al primo posto delle classifiche. A tutt'oggi ha venduto addirittura 8 milioni di copie in tutto il mondo. Più o meno 20 anni dopo essere stato scritto, nel 1987, grandissimo anno, voglio ricordare. Cioè, autore, grande polpa. Autore, prego. Autore e destinatario, Paul e Julian, si ritrovarono in un hotel di New York. Lì per la prima volta Julian Lennon seppe tutti i dettagli della canzone a lui dedicata. Beatles, Hey Jude. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Tanto attesa Hey Jude dei Beatles. Ma che bella è. Continuiamo, hey, continuiamo. Vai Polpa. Vai Polpa. Ah, vai, polpa, polpa te. Passa parola. Ma non, già, mi ero scordato che il bindo è al suo piccolino, il suo primo saggio di danza. E mi viene anche un c'è po' andato in moto bicicletta. Il Masa che il Masa c'ha un esaurimento nervoso. Pensa un po'. Auguri, Masa. Grazie. Auguri. Auguri. È passato ormai. Quanti sono? 40? 6. Mi porti male, però. Lo so. Ma male. 46 anni di pura potenza ferracea. Non so se esiste la parola ferracea. Come no? Ferracea. No, non c'entra niente, basta. E andiamo avanti, andiamo a parlare di Hello, I Love You dei Doors, i tanto amati dal nostro Bindi, dal nostro Luke. L'opera precedente aveva incantato il mondo con i suoi fuochi accesi e gli inviti a passare dall'altra parte, oltre le porte della percezione. Il seguito, Strange Days, era stato brillante come l'esordio omonimo, anche perché figlio della medesima ispirazione. ma adesso i Doors erano nei guai per due ragioni. La prima l'ha spiegata apparentemente Robbie Krieger nella biografia dei Doors, quando dice: quando una band entra in studio ha materiale pronto per un paio di album, poi se ha successo va in tour in motocicletta, in motocicletta. Casco sempre ben allacciato, e non riesce più a scrivere nuovo materiale. Quando entra in studio per il terzo album ed è costretta a comporre in sala, la differenza si sente. Quindi cosa vuol dire, Nanno, secondo te? Non lo so. Tuntien. La seconda ragione è Jim Morrison, sempre più preda dell'alcol. Olè. E dei suoi demoni. Vai, solo, vai. La Elektra non ha pazienza. Chiede a gran voce un'altra hit, un'altra Light My Fire. Il re Lucertola, ciao, reagisce distinto. Proponendo, cos'è oggi, ragazzi? Non Lucertola. Proponendo. No, è il tempo, dai, non c'è altra spiegazione. No, io. Allucinante. Se il caffè va col tempo. Ma non è Lucertola, reagisce distinto, proponendo di riempire l'intera seconda facciata, dai, quattro, con dai. La sua poesia, Celebration of the Lizard. John Densmore scaglia. Le bacchette della batteria contro il muro, per favore, sto creando. E minaccia di andarsene. A salvare tutte e tutti è Adam Osman, un discografico intelligente che, frugando nei cassetti di Jim, almeno trova il vecchio demo inciso nel 1965. Tra le canzoni ce n'è una in particolare, un'inedita dal titolo interessante, Hello, I Love You. I Doors con Hello I Love You. T'avevo rubato le cuffie. Continuiamo questa puntata di All Time Dyslessia Rock and Roll. Rock and Roll. Continuiamo con i Beatles ancora, e precisamente con la loro celeberrima Back in the USSR. Quante? È un brano di John Lennon, Paul McCartney del 68, che inizialmente era apparso come traccia d'apertura dell'album The Beatles, altrimenti noto come White Album, famosissimo. Il brano fu registrato durante le sedute per l'album The Beatles tra il 22 e il 23 agosto del 68 negli studi londinesi della EMI ad Abbey Road. Nella seduta di missaggio dell'album, curata da Lennon, McCartney e George Martin, fu deciso di utilizzarlo come traccia d'apertura. Alla registrazione erano presenti. Mi spiegate che fate? Non lo so, ha fatto tutto lui. Mi sono messo a ridere perché c'è Valerio che gli ha passato la scaletta al Masa. Piano piano, per non far sentire il rumore. No, e ho fatto una confusione pazzesca. Non lo so, mi è venuto in mente il film che c'è Bondi, De Sica e fanno i ladri. che quando devono entrare era? Dentro la banca, che ci sono i laser, loro piano piano che devono, e loro uguali avevano le stesse facce, guarda, denti stretti, piano, piano, piano, fa piano, e tanto, piano. No, e poi le risate, perché vabbè. Alla registrazione erano presenti tre dei quattro membri del gruppo. Ringo Starr, infatti, dopo un litigio occorso durante la prima sessione di prove, aveva lasciato il lavoro e si era preso un periodo di vacanza trascorso in Sardegna. La parte di batteria fu quindi... Ma se io litigo non vado in Sardegna? Sì, io posso andare in sì, Sardegna. Sì, perché no? Ma se domani litiga al lavoro vai sì, in Sardegna. No, La parte di batteria fu quindi principalmente curata da Paul McCartney, che nel brano suona anche il pianoforte, oltre ovviamente al basso elettrico. Ha fatto tutto lui? Sì. È come il tuttologo, Masa, come il Masa stasera fa uguale. Sì, è stato il tuttologo della situazione. Le chitarre sono invece di George Harrison e John Lennon, il quale fornisce nel brano anche il rinforzo vocale. Come caratteristica tecnica, il brano è un rock and roll veloce, l'ultimo del suo genere nella discografia del gruppo, concepito nella struttura AABCBA con un assolo di chitarra sulla stessa progressione armonica della strofa. Benché scritto formalmente alla coppia Lennon-McCartney, il brano è quasi interamente di quest'ultimo. Lennon si è solamente limitato a fornire un rinforzo di chitarra nella parte strumentale. Esso è tuttora eseguito nelle performance dal vivo di Paul. Questo brano è incluso, per esempio, nel suo album live Triptych, The Live Fantastic, Beatles, Back in the USSR. Beatles Back in USSR. E adesso continuiamo con Susie Q, una canzone pubblicata originariamente dal cantante e chitarrista Dale Hawkins sul lato B di Don't Treat Me This Way. La versione più conosciuta però è quella realizzata come faceva Don't Treat Me Don't Treat Me This Way, quella lì. Mi sciolgo. La versione più conosciuta però è quella realizzata dai Creedence Clearwater Revival nel loro omonimo album di debutto del 1968. Uscita come singolo, divisa in due parti, lato A e lato B, fu una delle loro prime hit e l'unica nella top 40 del gruppo non scritta da John Fogerty. John cantò la prima e la terza strofa, mentre il fratello Tom cantò la seconda. Credence, Susie Q. Ci siete davanti, vieni, vieni, dai, mi fai venire, vieni, vieni, sei davanti al microfono. È meglio davanti che dietro. Siamo in onda, Allora, e bentornati All Time Rock and Roll, quasi in chiusura, e andiamo a parlare, vi andrò a parlare dell'ultima canzone di per oggi. Esatto, solo per oggi, del 1968, giusto, grazie, giusto. E vado a parlare di Jimi Hendrix e della sua Voodoo Child, che è il titolo di una canzone del gruppo musicale The Jimi Hendrix Experience. Attento, perché se ora sbagli, vedi, ho posizionato dei sceci, ti faccio mettere in ginocchio dopo. Dove devo sbagliare? C'è anche la bacchetta da dare sulle dita. contenuta nel terzo e ultimo LP della band. Ma sbagliare nel senso cicletta, mocio cicletta. La canzone si è classificata alla posizione numero 101 nella lista delle 500 migliori canzoni di sempre redatta dalla rivista Rolling Stone. Il brano venne registrato da Hendrix nel 1968 e in seguito fu ripubblicato su singolo dopo la morte del chitarrista nel 1970. Era il lato A di un singolo costituito da 3 tracce e raggiunse la prima posizione in classifica in Gran Bretagna. Sul 45 giri il brano venne erroneamente indicato come Voodoo Chile, un po' particolare, strano in effetti, che invece era il titolo della lunga jam blues anch'essa rappresentata nell'album Electric Ladyland. La B-side del singolo conteneva 2 precedenti successi di Hendrix, Hey Joe e All Along the Watchtower, di cui abbiamo... Bellissima! Fantastica! Il 3 maggio del 1968, il giorno dopo la registrazione di Voodoo Child, una troupe televisiva dell'ABC filmò i Jimi Hendrix Experience, quindi tutto il gruppo, mentre suonavano il pezzo, e la canzone diventò subito una dei capisaldi delle esibizioni dal vivo di Hendrix, durante le quali il pezzo aveva una durata variabile dai 7 ai 18 minuti, a seconda dei casi. Pensavo a seconda delle droghe che aveva usato. No, quello di ragazzi, ricordiamo che non dovete assolutamente adoperare queste cose, no, assolutamente no. Solo se vi chiamate Jimi Hendrix. Beh, no, non è vero, ma non è anche, dai. Notevoli esecuzioni del brano furono suonate ai festival di Woodstock, chiaramente, in vari show del 1969. Alla Royal Albert Hall, Hendrix si riferisce alla canzone definendola l'inno nazionale della Pantera Nera. E lui è Jimi Hendrix con Voodoo Child. Yeah. in this world. I'll meet you on the next one. And don't be a bitch. Don't be a bitch. Cause I'm a pretty child, pretty child. I know that I'm a pretty child. Hey, hey. Jimi Hendrix con Voodoo Child. E scusa se è poco. Se è poco. Spacchiamo il minuto. Spacchiamo il minuto, siamo arrivati alla fine anche per oggi. A lei, Patru, come sempre, il compito di ricordare tutti i nostri appuntamenti. Esattamente. Francese oggi con oggi. Ricordiamo la nostra pagina Facebook dove abbiamo raggiunto i 200. Bravi! Bravi, grazie! Bravi, 200 bravi. Se non erro 11. 15, proprio, ho visto 15. Addirittura, ho visto 15. E ricordiamo anche il podcast di questa puntata. Vorrei, quindi... vorrei ricordare che al raggiungimento di 300 mi piace, al 300esimo verrà regalato uno stipendio del bingo. Non è poco, Che non è poco, attenzione, esatto, non è poco assolutamente. Si aggira intorno, no, naturalmente scherziamo, il suo lavoro, se no, se no arriveremo a 1000 mi piace nel giro di 2 minuti, se fosse vero. Tutti, sono io. I podcast l'ho messi tutti, mi sono impegnato, bravo, e l'ho messi, bravo, tutti. Esatto, finalmente hanno ridato la connessione a 56K, Valerio. Sì. E metterà anche questa puntata. Quella di oggi. Esatto, il modem, quello col cricetino. L'appuntamento con Time Rock and Roll è tutti i mercoledì dalle 19 alle 20, yep, ormai. Yes. E ricordiamo l'appuntamento con Piazza Alta domani alle 22. Esattamente. E questa sera Claudio stasera non ci sarà, non ma ci sarà mercoledì prossimo, sempre dalle 22 alle 23. Quindi abbiamo concluso anche per oggi. Vi salutiamo, io sono Nanno. Con la nostra dislessia, con la dislessia momentaneamente attenuata, e cerchiamo di approfittarne. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti.